Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Carmine Mannarino era un artigiano di Santena in provincia di Torino. Nel 92 si fa prestare 30 milioni e accumula un debito di 300 milioni con un usuraio calabrese che lo pesta a sangue e lo spoglia di ogni avere. Mannarino finirà per morirne, ma prima, nel 2000, sporgerà denuncia alla Guardia di Finanza di Torino. L'inchiesta farà emergere, ricorda il giudice Balestretti, connivenze con noti personaggi pubblici della zona in cui le illecite operazioni finanziarie venivano svolte. Le indagini chiariscono che l'usuraio si era fatto intestare immobili e attività commerciali da alcune delle sue vittime. Carmine Mannarino lascia tre figlie e una di loro, Rossella, oggi denuncia che poco o nulla dalla morte di suo padre è cambiato. La nostra vita non è mutata affatto, dichiara. Non è cambiata e oggi non siamo ancora stati risarciti per i danni subiti. Il dito di Rossella è puntato contro l'omertà del suo paese, 10.000 abitanti della provincia torinese. Viviamo nell'omertà, continua il ragionamento della giovane ragazza, figlia di un eroe normale, e nella solitudine. È una sensazione agghiacciante. La gente ha paura di parlare e di vedere. Anche una parte della chiesa è spaventata. E gli amministratori? Viene da chiedersi. È doveroso condannare i fenomeni criminali come l'usura, dichiara Rossella, ma gli amministratori sono sordi, molto sordi. Insomma, conclude desolata la ragazza, dopo la denuncia di nostro padre e la condanna in tribunale dei suoi aguzzini, tutto è rimasto come prima e deve arrivare la gente da fuori per cercare di smuovere qualcosa. Questo è ciò che accade a Santena, provincia di Torino, e non in Calabria, Sicilia o Campania. L'omertà è la nuova contagiosa malattia che, come la linea di coltivazione della palma, di sciasciana memoria, che dall'Africa sale verso l'Europa, ha ormai risalito anch'essa la penisola. Buona giornata e a domani.